Thank you. quanti ricchi vestiti, e quanto lavoro. Vedo già l'allegria, e lo sfarzo e le ricchezze, domani carnevale, domani gran baldoria. Ma perché chini il capo e sei triste? Perché? Taci, vecchia, arrivi altri carnevali. Che propenare giorno e notte, restiamo poveri, e non lo rimorrebbe i nostri piaceri. Che c'entra la povertà col carnevale? L'anno passato vestite io da dottore, tu da giardiniero. Le più belle maschere ci seguivano con le più dolci parole. Quattro nostri nuovi, dottore e giardiniera, ritorneranno più freschi e più belli di prima. Io dovrei farmi vedere con quei vecchi stracci. No! Un bel vestito stretto alla vita e a larghe pieghe grandi maniche ricamate e pezzi con fiume

vedo, che vedo, e lei posso parlare, principessa, principessa. Principessa, tu sai che io son tuo servitore, mergere il mio dolore che mi consuma e non apposa mai. Tu mi consumi e struggi, principessa, vedendoti si fiera e dispiegata. Hai ragione, il mio aspetto è seducente. Io canto di principi innamorati, ma molti no e ha. Sono un romanzo vivo, un'avventura su due piedi, un canto d'amore con labbra per baciare, con braccia per abbracciare. Un'avventura uscita da un libro che più vive quando si chiude. Le nonne indovinano e spasimano per ciò che è mio, e lei in me, nel mio spirito, le mie falsi gioielli, vede la sua pelle. Non male il rando, miserabile o principessa, tutte quali, infatti, se non mi inganno, la più bella principessa è folle d'amore per me. Non stupire, che vuoi esplorare una meravigliosa miniera. Se ti dimentico, pensa che sei una povera fanciulla. Andate, andate a casa, a casa. tanto ricca che coi suoi diamanti potrebbe lastricare il corso. Io, maestro di magia, bianca, nera, gialla, rossa, blu, so perché è venuta. Essa cerca fra le maschere del corso l'amico del cuore, lo sposo, quel principe assiro che è venuto a Roma per farsi strappare un dente da me. Guardate! Guardate! Ecco il dente! Il principe si è sparito, cercatelo nelle vostre case, in cantina, in cucina, negli armadi, cercatelo. Chi lo riporterà alla principessa avrà un premio di 500.000 ducati. Cercatelo, cercatelo. Se vi passa sotto il naso, senza gli occhiali miracolosi che vi dono per pochi paoli, gli occhiali dell'indiano Ruffiamonte non lo troverete. Incontro felice per me, ditemi, siete mai stato in Assiria? Forse ricordo, sì, ricordo un viaggio lontano, lontano, per un'avventura che mi rovesciò nel Tevere. Certo, certo, siete voi, voi. Bevete un sorso, un piccolo sorso. Fermati, fermati, io ti prego. Finalmente mi trovo, finalmente. Che volete da me? Che volete? Siete voi, Beatrice, dove giacinta, dove? Dove? Voi che dite dove? In prigione la povera giacinta a consumare la sua giovane vita. Per voi macchio di sangue vestito della principessa e voi l'abbandonaste. Povera giacinta, perché, perché? Beatrice, Beatrice, avete già dimenticato la principessa? Scrissi un dramma che ugual non finir le greche scene. Per te, Giglio, per te la tragedia non è morta. Rinasci in me, in te se vorrai. Ascolta. Oggi il gran Ruvenzat che l'equi notio e della bionda primavera figlio, perché il costume antico vuol che tragga l'origine ogni eroe dall'alte sfere. Il gran Ruvenzat nei campi Elisi attende il nome grande che sfortunato Ruvenzat nipote. Ahimè, quel mi vedrà gli amati figli. Ahimè, quel lui mi vedrà gli afflitta madre. Ah, quante cose, quante stragi arrende. Nelle calamità ch'oggi vedransi per colpa son del re che saggio e pio, come ne fanno al mondo le novelle persiane eterna fine. Mira non vuol depor finché non feda tutto perir quest'infelice stirpe. Come tu possi attormentarti a miei versi? Tanti demoni che dall'orrendo parlo e togliete la mano un io grinfuta su presto tendeti le rupettine. limpida e cristallina sorgente d'ordar rispecchiava l'immagine gioconda e serena di coloro che vi si miravano. Ora invece nessuno sorride più e l'ira domina coloro che s'avvicinano alla sorgente d'Urdar che si fa sempre più torbida. Solo Ermodio, il mago, poteva soccorrere gli infelici. Infatti, essi invocarono il suo aiuto. Mago cade in profonda meditazione, poi disse: persistete nove volte nove notti, e dal lago di Urdar sorgerà la vostra regina. principessa, lo perseguita, indugio, prima di rivelarsi a lui, come fare prece con me. Il giorno in cui la principessa principe darà la mano a me. Tu credi che il principe non osi entrare in questa casa? Ti sbagli. Il principe maestro di magia. Thank you. gran ruvenzat dell'equinozio nella pionda primavera figlio il gran ruvenzat ne compienisi attende nonne grande che sfortunato ruvenzat ne Thank you.